Investire informati. E naturalmente, per proprio metterlo nero su bianco, ripartiamo anche con la sigla della nostra rubrica del giovedì. Apriamo i giornali finanziari, leggiamo le notizie, le commentiamo, cerchiamo di tradurle a beneficio dei nostri ascoltatori che magari masticano con un po' di fatica i termini economici e i fatti in questo ambito. Allora, questo è l'obiettivo, lo spirito di Investire informati, ma soprattutto quello che vogliamo fare è capire quali ricadute ci sono in termini di scelte di risparmio e di investimento quando questi fatti si verificano. Allora, a proposito di cronaca finanziaria, anche se molti di voi avranno staccato la spina del tutto in agosto, non saranno certamente sfuggite le notizie che sono arrivate appunto dalla Cina. Per quello che mi riguarda, la ripresa del lavoro dopo le vacanze è esattamente coincisa il 24 agosto con il Black Monday cinese, il lunedì nero, che seguiva comunque settimane che erano già state abbastanza difficili per le borse asiatiche. Il trend negativo infatti è iniziato già verso la fine di giugno. Chiaramente questa situazione, lo sapete bene per chi ha letto le notizie, ha condizionato tutti i mercati mondiali, perché il colosso cinese ha la capacità di influenzare il resto del mondo, come abbiamo avuto modo di appurare negli ultimi anni. Cosa è successo? Che la Cina cresce meno del previsto, è scoppiata la bolla azionaria e ci sono state tutte le inevitabili ripercussioni sui mercati. Allora, come gestire questa situazione, gli attuali livelli di volatilità che non vedevamo da molto tempo? Ma non dimentichiamoci l'altro grande capitolo: i tassi di interesse e l'attività delle banche centrali. Oggi, oltre ad essere il compleanno di Mario Draghi, lo festeggia a Francoforte, la giornata della Banca Centrale Europea, ma è scontato dire che non succederà nulla oggi, a parte qualche revisione forse al ribasso delle stime di crescita e una revisione anche delle stime dell'inflazione appunto in Europa. Ma il tema più importante del mese è l'attività della Federal Reserve, che si riunisce il 16 e 17 settembre, e qui davvero sono del tutto aperte le scommesse sulle iniziative che prenderà Janet Yellen. Dottor Gaudio, da che cosa vuole cominciare? Segnalo anche agli ascoltatori che devono stare attenti alla prima parte della trasmissione, perché daremo qualche informazione che poi sarà al centro del nostro domandone nella seconda parte. Ci dice un po' che domande vi hanno fatto in questo frangente i risparmiatori che seguite? Beh, certamente è chiaro che quando parliamo di un mercato americano, parliamo della borsa che arriva a perdere in pochi giorni l'11%, come abbiamo visto sul finire della settimana scorsa, poi c'è stata una ripresa fortunatamente anche abbastanza importante, è chiaro che l'allarme sale, perché non tutti sono abituati a quella che invece è una caratteristica normale dei mercati, la volatilità. Ricordiamoci che abbiamo visto tanta volatilità in questi giorni, ma ne avevamo visto molta poca prima, e quindi è chiaro che siamo ritornati, diciamo, in un regime che in qualche modo sui mercati non si vedeva da tempo, ma che è connaturato ai mercati. Ecco, questo secondo me è molto bene dirlo con grande chiarezza, anche perché proprio in questi momenti sono le regole fondamentali del risparmio che vanno riviste, vanno riprese in mano, vanno rilette, mm-hmm. e che sono semplici. Quindi conoscere quello che vuoi da un prodotto finanziario, le tue esigenze, capire come è fatto questo prodotto, perché forse, come noi lo abbiamo detto tante volte, leggiamo con attenzione il contenuto delle medicine per capire che cosa c'è. Oggi vediamo anche sugli alimentari che è tutto dettagliato in maniera molto chiara. Molto spesso non conosciamo che cosa stiamo acquistando in termini di prodotti finanziari. E poi diamo la colpa agli addetti ai lavori. Poi vabbè, naturalmente fa parte del gioco, però ecco, devo dire, proprio in questi momenti secondo me è utile ripensare queste cose. Io devo dire, con un po' di anni alle spalle, ogni volta vedo gli stessi comportamenti. Devo dire, questo ogni tanto mi farebbe venire un pochino di pessimismo sulla capacità di apprendimento. Quali sono questi stessi comportamenti che vedi? Comportamenti certamente molto ansiosi, ma è comprensibile, si parla del denaro. Il denaro, voglio dire, è il risparmio, è quello che ho messo via da tanto tempo, quindi è assolutamente legittimo avere un comportamento, come dire, molto attento a quello che accade al denaro. Però direi quest'ansia, questa preoccupazione verrebbe meno, a mio parere, se in momenti più tranquilli, quindi non tanto quando succedono poi, diciamo, le crisi. In momenti più tranquilli faccio un vero e proprio check-up di quello che ho acquistato, di quelle che sono le esigenze a cui devo far fronte con i prodotti finanziari. Quindi sono suggerimenti, mi creda, molto, molto basilari, ecco, che però alla fine sono quelli che funzionano. Certo. Senta, in questi giorni noi a Cuore Denari abbiamo dedicato tante puntate alla ripresa a 360 gradi. Ieri ci siamo occupati dell'inserimento al nido e alla materna dei bambini, abbiamo dedicato delle puntate alla ripresa della scuola, quindi al suono della campanella, alla ripresa del lavoro, oggi la ripresa dell'attività sportiva. Fisiologicamente parlando, settembre è anche il mese, oppure così ce lo inventiamo noi, in cui si fa la chiacchierata d'autunno con il consulente finanziario, o voi non notate, diciamo, questo aspetto stagionale della vostra attività? Certamente c'è un aspetto stagionale, anche perché ovvio, psicologicamente, come si diceva prima, agosto è un mese in cui si tende a dimenticare un po' tutto, quindi anche quello che è lo stato dei risparmi di prodotti finanziari acquistati in precedenza. Quindi è ovvio che si tende a fare un check-up, a fare un riassunto di quello che è accaduto da inizio anno. È chiaro che se poi questo riassunto coincide con un momento di turbolenza, diciamo, questo bilancio può diventare un po' più complesso da fare. Però ricordandoci le regole che ho richiamato prima, forse diventa tutto più gestibile. 800 24 00 24, raccontateci come la pensate, come avete preso queste scosse agostane. Temete a questo punto di fare qualche errore per la gestione del vostro risparmio e dei vostri investimenti? Quando ci sono queste correzioni, dottor Gaudio, certo sarebbe bene non subirle, quindi essere magari usciti per tempo dal mercato che vive una fase difficile, oppure al contrario avere il coraggio di approfittarne, no? Ma è chiaro che non tutti i risparmiatori possono avere un atteggiamento così reattivo e repentino. Per chi fa ora una riflessione sui fatti d'agosto, che tra un po' andiamo a riepilogare, cosa suggerire? Beh, certamente se ho chiaro quello che voglio dal mio prodotto finanziario, possono essere anche momenti molto interessanti per approfittarne. È chiaro che se io ad esempio ho un'attitudine di lungo termine, non ho bisogno di liquidità immediatamente, ogni ribasso di mercato, naturalmente fatto con cautela, con intelligenza, può effettivamente rappresentare un'opportunità. Però è evidente che prima di farlo non devo cercare di fare timing, passatemi il termine un po' tecnico di mercato, perché è difficilissimo. Molto spesso anche gli stessi professionisti, come lei richiamava, fanno fatica a farlo, quindi la possibilità, sarebbe bello riuscire a vendere sempre il giorno prima. Ecco, quindi abbiamo visto grandissimi gestori internazionali che poi alla fine riescono una volta o due, ma non necessariamente sempre. Quindi se noi stiamo verso le basi, cioè quindi cercare di capire le mie esigenze, è chiaro che sia un'esigenza a lungo termine che può essere coperta con un prodotto azionario, evidentemente un ribasso, se importante, rappresenta un'opportunità. Dottor Gaudio, lei è stato sorpreso dalla turbolenza cinese, ci stava tutta nei numeri della borsa, visti i livelli che gli listini azionari appunto di quelle aree avevano raggiunto? C'è chi già richiamava l'attenzione molto forte sulla potenziale esplosione di una bolla, c'è chi invece sosteneva, ma insomma con i ritmi con cui tutto sommato ancora l'economia cinese cresce, è del tutto corretto la valutazione che la borsa fa appunto dei ritmi di crescita di quell'economia. Lei da che parte stava qualche settimana fa? Ma guardi, certamente il ritmo di crescita delle quotazioni, soprattutto sui cosiddetti mercati locali cinesi, perché poi ci sono borse a cui si possono avvicinare solamente i cittadini cinesi e non gli investitori internazionali, era veramente esagerato. Ecco, noi stiamo parlando di una borsa che era salita nei dintorni del 150% nel giro di pochi mesi, quindi sostanzialmente in poco meno di un anno, quindi anche una correzione importante come quella a cui stiamo assistendo, quindi l'ordine del 40-45% ci può stare nella fisiologia di un mercato che era stato molto speculato. Io francamente non mi sentirei di esagerare l'importanza delle fluttuazioni della borsa cinese, che è una borsa tutto sommato anche che ha molti piccola, difetti, molti limiti, piccola anche rispetto alla dimensione delle dell'economia. Il vero problema è se queste turbolenze della borsa cinese si trasmettono invece all'economia reale cinese, che certamente invece è molto importante e quindi potrebbe avere anche un impatto globale. Beh, probabilmente qualche impatto ce l'avrà, visto che comunque la borsa è cresciuta anche perché hanno preso ad investire risparmiatori cinesi che non avevano nessun grado di preparazione per poterlo fare. C'è la famosa storia della parrucchiera cinese che suggeriva ai suoi clienti di investire in borsa e di indebitarsi anche per poterlo fare, per cui quando poi una borsa cresce a debito è chiaro che scoppia un po', come è successo negli Stati Uniti, subprime e quant'altro. Anche se va detto che la partecipazione del popolo e dei risparmiatori cinesi a borsa è tuttora bassa. Ecco, 90 quindi... milioni di cinesi, racconta sempre Sebastiano Barisoni a Focus Economia, appunto, quindi, di piccoli risparmiatori. Non esagererei questo fattore. Un fattore che sicuramente ha scatenato nel corso di agosto le preoccupazioni è stata l'improvvisa decisione di svalutare la moneta cinese. Ecco, quindi quello effettivamente è stato, come si usa dire, un po' il trigger, no? Cioè, quindi quello che ha condotto poi alla vera e propria crisi dei mercati, perché in effetti questa decisione unilaterale e non attesa ha fatto intimorire gli osservatori, dicendo se svalutano è perché pensano che l'economia non sta tirando a sufficienza. Quindi quello effettivamente è stato un po' il segnale, se vogliamo, che ha preoccupato i mercati. E questo è stato probabilmente l'elemento che poi ha avuto le sue ricadute anche sui mercati azionari internazionali. Vi volevo dare qualche performance. Il FTSE MIB a Piazza Affari dall'inizio dell'anno, nonostante sia stato condizionato poi dagli eventi cinesi, è ancora positivo. Il FTSE MIB è in rialzo di circa quasi 13 punti, forse qualcosa in più grazie alla prestazione di oggi. Londra è negativa per circa 7,5 punti, Madrid è negativa per circa 3 punti, insomma ne abbiamo tante. Le situazioni Francoforte è ancora positiva per circa 2 punti percentuali, e quindi ecco, tenete a mente queste percentuali perché poi magari vi farò qualche sorpresa nella seconda parte della trasmissione. 800 24 00 24 il numero verde per i vostri interventi. Allora direi di inaugurarli subito, gli interventi degli ascoltatori. Cominciamo con Riccardo da Roma. Benvenuto Riccardo. Buongiorno a lei e al suo ospite. Grazie. Io sono il classico emotivo, come ha detto precedentemente il signore dottore di Medivano, ma perché quando è iniziata questa bolla cinese, comunque ha fatto tremare un po' i mercati, sono molto preoccupato perché si parlava giorno per giorno di una caduta di mercati globali del 2-3%, addirittura poi è arrivata all'8% in un differenza strategico. Allora, ho venduto, ho sbagliato, dica quello che vuole, ma comunque ho venduto. Dico, io non mi sento di stare a vedere giorno per giorno se continua a calare, a un certo punto si ferma. Certo. In realtà poi ho visto che non ho perso molto, perché ho il 65% del mio gruzzolo in obbligazioni, e questo non ha impattato moltissimo. È vero, le obbligazioni hanno avuto una tenuta. Esatto. Sì. Poi avevo invece un pinco americano azionario, un PAC, e che hanno, diciamo, il PAC ha tenuto molto bene, il PAC è azionario, il pinco con cedola. Diciamo, su Riccardo, possiamo andare alla sintesi così diamo anche spazio? Adesso un po' di liquidità. Un po' di liquidità. Che cosa consigliano gli esperti? Lasciarla, aspettare, investire in obbligazioni, investire in azioni, investire in un mercato particolare? Non c'è una bacchetta magica, lo so. Certo. Un suggerimento. Grazie Riccardo. Allora, intanto devo dire che Riccardo ha fatto, come dire, secondo me, la scelta coerente al suo atteggiamento. Lui si stava spaventando, dice, sai che c'è, non le voglio subire tutte queste turbolenze, certo. Esco, magari ci ha perso qualcosina, però probabilmente in quel momento, per quelle che erano le sue caratteristiche anche caratteriali ed emotive, ha fatto probabilmente bene, però non ha abbassato la guardia. Adesso io questi soldi ce li ho. Che faccio? Che cosa farebbe, dottor Gaudio? Beh, certamente se investire deve diventare una sofferenza, ecco, alla fine forse concordo con lei sul fatto che si possa anche chiudere le posizioni. Però al di là della battuta, io credo di dover ritornare proprio ai precetti che abbiamo detto prima. Tutto dipende dal signore, dal signor Riccardo, che esigenze vere ha. Cioè, se il signor Riccardo non ha bisogno di denaro e quindi non ha, diciamo, esigenza breve, non deve acquistare una casa, non deve acquistare un mobile, non deve dare i soldi ai figli, beh, io credo che comunque l'investimento con un minimo di rischio al suo interno, quindi una componente azionaria, rimanga anche a questi livelli assolutamente da consigliare, anche perché in effetti le obbligazioni, per carità, saranno meno volatili, ma questo sono sempre state meno volatili dell'azionario, ma oggi rendono niente. Ecco, ricordiamoci che continuiamo a permanere in un mondo vicino ai tassi zero. E quindi, per carità, possiamo anche parcheggiare nella liquidità, possiamo parcheggiare nell'obbligazione per qualche tempo, ma per quanto tempo? Vuol dire ricevere nulla dal proprio capitale. Dormirò più tranquillo? Benissimo, ma non guadagno niente. Quindi sotto questo profilo, se non ho bisogno di liquidità a breve, se ho un'attitudine sufficientemente, come dire, proiettata al medio-lungo termine, una componente di azionario una volta che il mercato si stabilizza, perché è evidente che queste crisi poi alla fine necessitano una stabilizzazione. Io non vi dico che il mercato riparta dopo domani, ci può essere una stabilizzazione di qualche settimana, ecco, per capire dove effettivamente il mercato va a posizionarsi, ma poi il mercato riprende. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Allora, sono le 11:27, ho il tempo per sentire qualche altra considerazione degli ascoltatori prima di scattare la fotografia alla seduta odierna di borsa, che è largamente positiva. Peraltro, dottor Gaudio, anche il Brasile mi è caduto in recessione, no? Quindi, come dire, dobbiamo riprendere in considerazione un po' lo stato di salute di tutto il BRIC, che ritorna a far parlare di sé, l'avevamo emergenti. Un po' accantonato, esatto. Certamente, anche perché vede, la crisi che stiamo vivendo in realtà, più che della Cina o solo della Cina, è legata a tutto il mondo delle materie prime. Noi stiamo assistendo veramente a una situazione epocale sulle materie prime. Ricordiamoci che il petrolio, che è la materia prima principale di cui tutti parlano, è passato da $110 a 45 circa. È arrivato anche a 38 quello americano. È arrivato anche a 38 in questi, proprio per qualche minuto, in questi giorni. Quindi stiamo parlando veramente di una situazione storica, ecco, di declino. È evidente che sono proprio i paesi emergenti, cioè quelli che molto spesso sono produttori di materie prime, che hanno basato proprio sviluppo sulla crescita costante dei prezzi e materie prime, che oggi sono in difficoltà. Quindi le piazzo subito lì la domanda allora di Fabrizio da Firenze, sulla quale rifletteremo nella pausa che ci aspetta. Fabrizio, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie. Buongiorno. Opportunità. Grazie a lei. È una riflessione piuttosto importante. Ecco, io in questa fase di ho il ritorno della mia voce, non so se sono un po' fatica a parlare. Abbia un po' di pazienza, adesso proviamo a sistemare. Fabrizio, intanto faccia la domanda cercando di distrarsi da questo ritorno. Sì, perfetto. In questa fase di turbolenza, avendo una propensione al rischio piuttosto elevata e come, diciamo, bene rifugio tra virgolette, io avevo pensato di investire in oro fisico con la copertura dal rischio cambio. E però sto vedendo che non si apprezza. Ecco, per quale motivo in una fase di turbolenza l'oro fisico non mi prende? Ecco, una considerazione dall'esperto, grazie. Grazie a lei. Noi intanto facciamo la borsa in diretta con l'aggiornamento odierno. Mi stupiva un po' la copiata che ha fatto Fabrizio. Sono un investitore abbastanza aggressivo, voglio assumermi del rischio e quindi vado sul bene rifugio. No, mi sembrano simoro in termini, come dire. Beh, però adesso magari lo commentiamo insieme. Esatto, infatti. Cuore e denari. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti senti come viene pioggia, una pioggia di vendite ha colpito i mercati finanziari a fine agosto, insomma quasi un po' per tutto il mese di agosto c'è stato un po' di nervosismo. Siamo sempre all'interno della rubrica Investire Informati, abbiamo fatto un rapido riepilogo dei fatti più importanti delle ultime settimane. Con Investire Informati siamo ritornati all'appuntamento fisso del nostro programma che ci permette di commentare l'attualità economica dalla prospettiva del piccolo risparmiatore. Con noi sempre Vittorio Gaudio, amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi, e poi i vostri interventi all'800240024. Siete stati attenti alla prima parte della trasmissione? Spero di sì, perché tra poco vi faremo il nostro domandone, se naturalmente siete lieti di ricevere alcuni dei nostri libri, libri della appunto biblioteca di Cuore e Denari. Allora, dottor Gaudio, sai che faccio? Visto che abbiamo parlato di beni rifugio, di chi cerca certe modalità di protezione, le metto dentro, oltre alla domanda dell'ascoltatore precedente, anche quella di Sergio da Udine, così magari facciamo un commento generale. Sergio, benvenuto. Ah, buongiorno. Sono il vostro ascoltatore e vi ringrazio. Grazie Sergio. Volevo chiedere, dunque, mi sono fatto consigliare dalla banca, mi fa, guarda, visto che non hai già diversi investimenti fatti, potrebbe essere un buon investimento quello di diamanti. Tramite la banca, in pratica, mi hanno proposto, che sono andato ho finito il lavoro, i TFR, una cifra sui 35.000 euro circa, appunto farli investirli in questa maniera, che non vanno né sull'ISE, non vengono né tassati, da quanto me l'ho detto loro, lei comunque, e hanno un rendimento medio. Guarda, grazie. Anche un po' la fiscalità. Allora Sergio, intanto se vuole saperne qualcosa in più vada a spulciare un po' nell'archivio di Cuore Denari, perché abbiamo fatto una puntata esclusivamente dedicata a questo tipo di investimento, se non mi ricordo male all'inizio di giugno, per cui magari può trovare qualche informazione in più con alcuni specifici addetti ai lavori. Detto ciò, dottor Gaudio, lei dirà, ma perché avete invitato me, che faccio un altro lavoro, a parlare di investimenti di questo tipo, diamanti, oro fisico? Detto questo, è probabilmente un po' la domanda che si fanno in molti, no? Comunque gli ascoltatori ci hanno specificato che hanno già portafogli abbastanza diversificato. Certo. Questo sarebbe qualcosa in più, ma insomma sono scelte gettonate in questo momento dalla platea degli risparmiatori ricercati. Guardi, anche presso gli investitori istituzionali comunque l'asset class più generale materie prime è considerata ormai una parte importante dell'allocazione, tant'è che ci sono dei prodotti che mettono in maniera strutturale anche una componente in materie prime, ci sono ormai degli ETF su materie prime abbastanza trattati anche sui mercati, quindi si chiamano ETC perché sono, esatto, si chiamano ETC, sono denominati in commodity. In commodity, però diciamo non mi sottraggo alla domanda, anche perché secondo me è molto interessante. Perché l'oro, tornando alla domanda proprio di Fabrizio, si può apprezzare? Perché io compro oro? Beh, normalmente compro oro in quale situazione? Una situazione dove ci può essere una grossa crisi sistemica, in cui io penso che l'inflazione possa salire molto e quindi cerco un bene reale che in qualche modo possa mantenere il proprio valore nel tempo di fronte a una ripresa forte dell'inflazione, una situazione in cui possono ad esempio cadere molto i tassi di interesse, i tassi di rendimento sulle obbligazioni. Perché vi dico questo? Perché certamente l'oro non fa guadagnare nulla, l'oro non ha una cedola, non ha un rendimento, quindi è chiaro che io compro oro quando il rendimento sulle altre attività finanziarie sta cadendo, scende molto, perché allora, voglio dire, il costo opportunità di detenere oro diminuisce. È chiaro che se io ho un tasso di interesse ad esempio su obbligazioni americane che dovesse andare un giorno all'1%, il costo opportunità di detenere oro diminuisce. Se invece il rendimento delle obbligazioni americane mi va al 5%, beh, ci perdo molto a detenere oro, perché rinuncio a quel 5% che potrei avere sulle obbligazioni. Oppure, altra situazione che vi dicevo, quando c'è una grossa crisi sistemica, ecco, una rivoluzione, che l'abbiamo visto nel tempo, ad esempio chi comprava oro, visto che è una materia finanziaria che è trattata da tanto tempo, lo faceva quando prevedeva che ci potessero essere effettivamente degli scossoni a livello di sistema economico. economico e così via. Perché vi dico tutto questo? Oggi non siamo in nessuna di queste situazioni, quindi questo spiega anche perché siamo arrivati a un livello dell'oro che è partito da 1900, oggi siamo a 1130, quindi certo, c'è stata una caduta importante. Qualcuno dice si può riprendere, probabilmente dopo una caduta di questo tipo ci può stare anche un rimbalzo, però tutte le condizioni che dicevo prima in questo momento non ci sono, ecco, quindi prevedere un forte trend di apprezzamento dell'oro sembra abbastanza difficile. Tra considerazioni che possono traslarsi anche al mondo diamanti, dottor Gaudio? Beh, in generale tutti questi beni rifugio rispondono un po' a questa esigenza, cioè quello di tutelarsi in termini di valore reale del proprio investimento, però siamo anche in un contesto in cui effettivamente è di inflazione, per cui la necessità di difendere il valore reale degli investimenti non è che ce ne sia tanto. Oggi probabilmente lo stesso Mario Draghi ci dirà che il suo tentativo di riuscire a raggiungere un'inflazione del 2% sta mancando, ecco, quindi effettivamente c'è un fenomeno secolare che stiamo vivendo proprio in questi anni, è la mancanza di inflazione. Quindi uno dei motivi importanti per cui io dovrei comprare dei beni rifugio proprio per salvaguardare il valore reale del mio capitale in effetti non c'è. Allora, ha citato la Banca Centrale Europea di Mario Draghi, diciamo che l'appuntamento odierno, a prescindere dall'aspetto folcloristico del compleanno del governatore oggi, che festeggia lì, poveretto, insomma, se uno festeggia il compleanno all'inizio di settembre deve farlo probabilmente in qualche posto di lavoro. Detto questo, il tema, il focus fondamentale di tutti voi operatori del risparmio e degli investimenti, dottor Gaudio, so che invece è completamente girato sull'attività della Banca Centrale Americana. Certamente. La Federal Reserve si riunisce il 16 e il 17 settembre, probabilmente ha di fronte a sé una decisione molto difficile da prendere. Janet Yellen a iniziare ad alzare i tassi per la prima volta da quando ha fatto l'ultimo aumento, fine 2008, siamo andati a zero. A zero, cioè, quindi noi viviamo una situazione di tassi a zero sull'America che dura dal inizio 2009. L'auspicio di voi professionisti nelle scelte di investimento qual è? Che la Banca Centrale Americana inizi al più presto questa normalizzazione dei tassi di interesse, perché questo livello a zero non è assolutamente una condizione di normalità, oppure fanno bene a tergiversare ancora un po' anche ai vertici della Federal Reserve? Adesso il dibattito è diverso perché c'è Fisher, il numero due della Fed, che proprio nei giorni scorsi ha detto sembrava rinviata di nuovo questa decisione, invece lui ha detto no, noi la consideriamo per settembre. Ma guardi, io credo che un rialzo alla fine ci sarà, probabilmente anche quest'anno. Stiamo parlando però di un rialzo unico. Se ci fosse anche un rialzo di 25 punti base, stiamo parlando di tassi di interesse che rimangono bassissimi. Cioè, quindi forse anche il nervosismo che è palesa tra i mercati su questa decisione è anche un po' esagerato. Io credo che ci sarà un rialzo solo, poi probabilmente la Fed si prenderà un po' di tempo per capire l'effetto di questa decisione sui mercati e sull'economia. Il prossimo sarà sicuramente nel 2016. Luca d'Arezzo vuole farci una domanda su questo argomento. Luca, buongiorno. Buongiorno. Sostanzialmente, per capire se la tendenza al rialzo dei tassi di interesse potrebbe essere una buona cosa come tendenza generale e con che intensità. Certo. Grazie Luca, effettivamente è vero. Quando circostanza di un aumento dei tassi, quando ci si insiste molto al mercato azionario un po' comincia ad innervosirsi, no, dottor Gaudio? Pur, come dicevamo prima, nella consapevolezza che è ora di iniziare questa normalizzazione dei tassi di interesse, significa che l'economia va meglio. Esattamente, cioè, quindi diciamo che la prima parte di una fase di rialzo dei tassi normalmente è figlia di che cosa? È figlia di un'economia che si riprende, quindi sotto questo aspetto anche storicamente, statisticamente, il primo rialzo dei tassi interesse non ha mai fatto male particolarmente ai mercati, proprio perché è il segnale di un'economia veramente in fase di ripresa. Sono gli ultimi rialzi, quelli che invece sono figli della decisione, della volontà della Banca Centrale di raffreddare l'economia, di raffreddare l'inflazione. Quindi allora lì sì che effettivamente il mercato ha ha ragione legittimamente di preoccuparsi. Non siamo certamente in questa situazione. Certo. Oggi abbiamo un'economia americana, abbiamo visto anche gli ultimi dati, che cresce al 3,7%, con una disoccupazione che è ampiamente scesa sotto i livelli molto preoccupanti. E magari venerdì sorprenderà di nuovo. Ecco, francamente è anche bene per un banchiere centrale ritornare in una situazione di normalità, anche perché se no non c'è più un cuscinetto di possibile ribasso nel caso di future crisi. Certo. Senti, come il dibattito su questo aumento dei tassi di interesse americani è apertissimo dall'inizio dell'anno, secondo lei le azioni e le obbligazioni hanno già digerito questo aumento che verrà fatto o a settembre o a ottobre o a novembre, o qualche effetto dobbiamo ancora vederlo? Ma guardi, io penserei che in buonissima parte un solo rialzo, cioè se il rialzo, come si diceva prima, è di 25 basis point, secondo me c'è nei mercati. I mercati alla fine non è che si stanno impaurendo di questi 25 basis point, si stanno impaurendo di una situazione in cui effettivamente la crescita mondiale c'è, ma è un po' squilibrata. Chi sta crescendo oggi sono gli Stati Uniti, l'Eurozona in effetti ci sono dei segnali timidi di risveglio, ma rimane una situazione sostanzialmente di stagnazione o comunque di qualche segnale di ripresa, ma effettivamente molto debole, e poi con il terzo pilastro che si chiamano emergenti, che invece non si capisce che cosa stia succedendo. È chiaro che un'economia che si poggia su un pilastro solo, che sono gli Stati Uniti, è effettivamente fragile. È un po' fragile. Ecco, questo è quello che preoccupa i mercati, e quindi vogliono capire se effettivamente invece è solo una pausa o qualcosa di più. Cuore e denari. Un impegnativo rientro di Cuore e denari con l'inno alla gioia. Non possiamo non rivolgere, infatti, uno sguardo alla nostra Europa. Abbiamo ricordato più volte che oggi è la giornata del primo meeting post ferie della Banca Centrale Europea. L'agenda di Draghi è certamente ricca, e non solo della festa per il suo compleanno. Noi non abbiamo certamente un problema tassi in Europa, abbiamo però ancora un'inflazione rasoterra che persiste, quindi abbiamo già commentato il funzionamento di questo quantitative easing che è in corso dall'inizio dell'anno. Ne stiamo parlando di tutto questo con Vittorio Gaudio, amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi. Abbiamo parlato insomma di una situazione planetaria dal punto di vista economico molto differenziata, un'economia americana che marcia in maniera abbastanza rilevante, l'Europa che dà qualche segnale non ancora soddisfacente, tanto che lo stimolo monetario di Draghi è ancora in corso, lo sarà ancora a lungo ed è piuttosto significativo, e poi tutte le turbulenze che sono arrivate dai mercati emergenti guidati appunto dalla crisi cinese. E naturalmente i nostri ascoltatori si aspettano dei suggerimenti su cosa fare. Ovviamente il tema è sempre quello: guardate soprattutto agli obiettivi, che cosa vi aspettate che fa c'è il vostro denaro, che obiettivo di vita deve soddisfare. Però farei anche il nostro domandone. È facile, perché proprio voglio regalarvi un sacco di libri oggi. All'inizio della trasmissione vi ho dato qualche percentuale su alcune borse europee, quanto sono cresciute dall'inizio dell'anno. Perché alcune, anche nonostante la crisi di agosto, ha ancora un bilancio positivo e anche largamente positivo a due cifre. Quindi vi ho già dato dei suggerimenti. Allora, Piazza Affari dall'inizio dell'anno quanto fa? Andate a cercarvi la percentuale se volete i libri della nostra biblioteca, 800 24 00 24, per intervenire. Allora, sentiamo adesso Paolo da Baviera, pronto da un po'. Paolo, benvenuto. Visto che dottor Gaudio l'ho fatta sbilanciare sull'oro, sul diamante, adesso abbiamo un'altra asset mancante. Paolo, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie. Beh, grazie dell'opportunità. Io opero nel settore immobiliare e sono ovviamente incuriosito da questo fatto. Cioè, i mercati di titoli immobiliari e le borse scendono, i beni rifugio sostanzialmente flettono. L'immobiliare, che dal 2007-2008 è crollato precipitosamente, non riesce a ripartire. Ora, la domanda che volevo fargli è questa: in un momento appunto di rendimenti zero, perché non ritornare, non disinvestire le masse, diciamo, dalla borsa, e riposizionare sull'immobiliare, dove i rendimenti sono comunque soddisfacenti, perché stiamo parlando di locazioni, quindi di cassa che arriva con rendimenti del 4-5% su tipologie residenziali e del 5-6, anche 6,5 su tipologie non residenziali. Ovviamente poi c'è tutto l'aspetto delle imposte, quant'altro. Esatto, Paolo, però, tocca, però guardi, prezzi molto bassi vuol dire anche assicurare il proprio denaro, una rivalutazione, nel caso qui i prezzi ripartono. Secondo me l'aspetto fiscale è rilevante, perché c'è talmente tanta incertezza sulla fiscalità sulla casa, sia come prima casa che come investimento, che l'italiano ancora ci pensa 3 o 4 volte prima di rimettere i soldi là. Ma questa è la valutazione della Rosciani, dottor Gaudio. Che ne pensa? No, certamente, voglio dire, in termini di diversificazione, come si diceva, le materie prime prima, il fatto di investire immobiliare, effettivamente vado a cautelare quello che è teoricamente il valore reale del mio capitale, investendo proprio in un asset cosiddetto reale. Il problema del mondo immobiliare, se vogliamo, e lo vediamo proprio perché noi stessi gestiamo fondi immobiliari, è stato una tassazione, come lei diceva, sicuramente penalizzante, perché in questi anni è comunque incerta, confusa, perché se fosse solo penalizzante ma certa per 10 anni, magari comunque esattamente. E poi indubbiamente, ad esempio, osserviamo il mondo ancora degli immobili non residenziali. È evidente che questa è un asset class che risente della ciclicità dell'economia. Se io investo in un fondo che investe ad esempio in palazzi uffici, centri commerciali, e lei può immaginare che ad esempio sia le locazioni che il livello di sfitto di questi immobili risente molto dell'andamento dell'economia complessiva, perché evidentemente se le aziende che affittano degli spazi in questi palazzi uffici hanno poi delle difficoltà economiche, perché il ciclo economico nel suo complesso non va, magari mi chiedono riduzioni di canoni, magari aumenta il tasso di sfitto dell'immobile, eccetera. Quindi è vero che è un asset class reale, per certi versi meno correlata all'andamento dei mercati finanziari, e sotto questo aspetto siamo d'accordo, però indubbiamente è un asset class che ha una sua ciclicità, una sua diciamo capacità di essere influenzata da quello che è il mondo in generale, la congiuntura economica di un paese. Quindi sotto questo profilo convengo sul fatto che sicuramente stiamo vedendo, punto primo, certamente dei livelli molto bassi, quindi che in una logica diciamo corretta possono essere attrattivi. Secondo, qualche inizio di speranza anche in termini di transazioni, perché ecco, stiamo vedendo che ad esempio nel mondo delle transazioni immobiliari si comincia a ricrescere, a fare diciamo un'attività. Voi lo vedete probabilmente anche altre attività di erogazione dei mutui. Esattamente, no? Quindi questo normalmente è il primo segnale di un risveglio del mercato. Allora, speriamo insomma che anche da lì arrivi qualche segnale buono. Noi questo auspicio lo rivolgiamo soprattutto a tutti coloro che vogliono mettere su famiglia, alle giovani coppie, che sono quelli che ci stanno probabilmente più a cuore. Poi naturalmente c'è anche l'aspetto del settore immobiliare considerato come investimento, ma soprattutto insomma per la prima casa ci piace che ci arrivi qualche buon segnale, almeno da questo punto di vista. Ci sono i dati, dottor Gaudio, sull'andamento dell'industria del risparmio gestito? Assogestioni ha comunicato l'andamento del secondo trimestre, abbiamo un calo del 28% a 40,11 miliardi rispetto al primo trimestre di raccolta dell'industria dei fondi. Nel primo trimestre sono stati raccolti circa 56 miliardi di euro. Allora, la percentuale meno 28 è rilevante, però insomma stiamo comunque ancora su livelli abbastanza significativi di raccolta. Come va l'industria del risparmio gestito dal suo punto di vista? Beh, indubbiamente l'abbiamo visto tante volte nei momenti di incertezza dei mercati, qualche forma di influenza di quello che sta succedendo sul mercato, sulle scelte dei risparmiatori, quindi non possiamo non tenerne conto, lo vediamo sempre. Ecco, molto spesso ci piacerebbe vedere un comportamento, come per dire, anticiclico dei risparmiatori, però questo forse è una pia speranza, nel senso che poi evidentemente le notizie che giungono dai mercati possono indurre a comportamenti più cauti o riflessivi. Io continuo a pensare che e qui ci sarà anche un piccolo conflitto di interesse, data la mia posizione, che di fronte al fai da te, quindi l'obbligazionario, i titoli di Stato, i conti deposito che non rendono niente in questo momento, beh, andare verso un risparmio di tipo professionale, cercare effettivamente, torniamo a mezz'ora fa, di fare questo famoso check-up delle proprie esigenze, beh, sia un'iniziativa tuttora lodevole da fare per tutti noi. Pierluigi non la vuole fare per sé, ma la vuole fare per le sue nipotine. Pierluigi, benvenuto. Bene, bene. Buongiorno. Buongiorno. Io ho 2 nipotine, una di 5 e una di 7 anni. Ottimo. Volevo mettere via dei soldi per quando andranno all'università. Bravo Pierluigi. Ecco, ho guardato in giro, ma i rendimenti sono sotto le scarpe. Lo so, Pierluigi, però lei ha un vantaggio dal suo punto di vista, che è il fattore tempo, dottor Gaudio, e quello è più dell'oro, più di ogni bene rifugio. Certamente, guardi, il fatto di poter ragionare su un orizzonte così lungo, perché immagino che le nipotine siano piccine. 5-7 anni. Questo veramente le dà un vantaggio straordinario, perché quello che succede di qui a un anno a lei non interessa. Ecco, io le dico una semplice statistica. Se io vado a vedere negli ultimi 100 anni il mercato americano, se io guardo i rendimenti a 20 anni, c'è stato solo un caso in cui un investitore che ha investito sulla borsa americana per 20 anni ha ricevuto 20 anni dopo un rendimento negativo. Mm. Quindi questo quando vuol dire che questo, sostanzialmente c'è stata la crisi dei subprime. Esattamente, quindi, ma di poco, di pochissimo. Quindi sotto questo aspetto, se uno ha veramente la disponibilità dei 15-20 anni, ma non c'è problema, non c'è problema, diversifico su tutto il mondo, faccio un bel pack in un fondo azionario ed è quello, se le posso dire, è quello che ho fatto qualche anno fa per mio figlio, che adesso fortunatamente sta crescendo, ma ho fatto esattamente questo. Certo. E devo dirle che sono molto soddisfatto, spero che un giorno lo sia anche lui. Esatto, quindi non si ossessioni nella prestazione magari dell'investimento, ma da un mese all'altro, da un anno all'altro, soprattutto faccia un investimento che anche per lei, Pierluigi, sia sostenibile a livello mensile e annuale, quindi un investimento per le università e qualche regalino anche ogni tanto alle bambine, che un nonno deve fare sempre assolutamente. Le faccia anche divertire. Il domandone: quanto ha guadagnato la borsa italiana dall'inizio dell'anno, che ha resistito la pioggia di vendite che ha travolto la Cina? Pietro dalla provincia di Bari, sentiamo se ha la risposta giusta. Sì, pronto? Sì, il 13%, 13%. Bravo Pietro, non abbiamo l'applauso disponibile, eccolo qua, subito pronto, ma glielo facciamo volentieri anche virtualmente. Pietro, vuole il libro di cuore o di denari? Il libro di denari. Ottimo, siamo pronti anche con quello. Benissimo. Dottor Gaudio, questa interrogazione senza sosta è quasi terminata, ma altri 30 secondi di tempo ce li ho. Qual è un tema che lei seguirà con passione da qui ai prossimi mesi? I tassi americani, l'ho già capito, ma dell'altro vuole stimolarci su. Beh, certamente su i tassi cosa. Americani, le dico, per tutti noi professionisti sono il tema centrale. Ecco, tema centrale per vedere come i mercati reagiranno. Io vi dico, sono abbastanza ottimista su questo, nel senso che credo che sia un fattore che in qualche modo sia scontato, e soprattutto non abbiamo mai visto banche centrali così attente a quello che succede sui mercati come oggi. Quindi questo ci da grande, esatto, fiducia. Anche perché dopo loro non abbiamo più nessuno, a meno che non andiamo, non so, ci dobbiamo affidare veramente a qualcuno che sta molto più in alto di noi. Grazie dottor Gaudio, ci risentiamo tra qualche settimana. Grazie per aver inaugurato con noi la nuova stagione autunnale di Investire Informati. Grazie a tutti, noi ritorniamo con Cuore Denari domani, torna anche Nicoletta Carbone. A tutti buona giornata.